X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Roberta Pinotti, genovese sposata con due figlie, laurea in lettere, insegnamento negli istituti superiori, deputata dal 2001, dal 2006 al 2008, presidente della commissione difesa della Camera, poi ministro della difesa nel governo Renzi. È stata pacifista, oggi la prima donna che fa scattare sull'attenti i generali. Di lei parlano tutti bene e c'è chi la vede già al traguardo della maratona più importante della carriera, quella per il Quirinale. Maratoneta lo è veramente e già immagina il nuovo record che farà in quella di New York. Si allena nel tempo libero, intanto pensa a come rifare l'esercito italiano, progetta il suo libro bianco e spera di convincere gli europei a fare insieme la difesa comune. Nel giorno del suo insediamento ha preso un impegno solenne: riportare i Marò a casa, ma il giorno non si avvicina e loro disperati hanno urlato la loro rabbia alla Camera. Sono passati più di 2 anni e anche questa volta siamo costretti ad essere presenti lì in Italia solo attraverso una webcam. Abbiamo obbedito a degli ordini ed oggi siamo ancora qui presenti. Abbiamo mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta di mantenere e che ancora con dignità e onore per la propria nazione la continuiamo a mantenere. Noi vorremmo che venga riconosciuta prima di tutto la nostra innocenza. Ogni militare deve sapere di essere tutelato dalle proprie immunità. Allora, ministro Pinotti, immunità funzionale di cui parla Girone, perché per loro non vale? Il punto dell'immunità funzionale è quella su cui questo governo ha puntato tutta la sua nuova strategia. Ecco, ma se fossero due Marines invece che due Marò, sappiamo tutti che sarebbero già stati portati via, lo sanno? Ma da questo punto di vista anche noi porteremo via i due Marò. Per esempio al CERMIS. Porteremo via nel senso che devono tornare in Italia. A casa, certo. Per esempio al CERMIS. Quando volevamo processare i piloti americani che ci hanno riso in faccia, li hanno portati via loro e non li abbiamo più visti. Forse dovevamo fare così anche noi. Si ricorda che comunque c'è stata un'intesa, non è che sono stati portati via senza un'intesa. Noi dobbiamo trovare questa intesa. Se ci sarà questa intesa con lo Stato indiano, io me lo auspico bene, altrimenti avremo l'arbitrato internazionale. Senta, ministro Pinotti, ma se iniziassimo intanto a non comprare gli F-35, potremmo farci sentire un po' di più e avere più aiuto? Ma da questo punto di vista non è un tema che interessa la NATO e le alleanze internazionali. Gli F-35 sono stati una scelta dell'Italia, risale addirittura al 98 con Andreatta, e sono il sistema d'arma che l'Italia decide di avere per avere gli aerei d'attacco. Senta, ma quanti F-35 ci servono? Guardi, questo, se non vogliamo fare quelli che giocano a dadi, diciamo, la mattina al bar, lo dobbiamo decidere quando abbiamo deciso quali pensiamo che siano i rischi per il nostro paese e dove pensiamo che debba poter intervenire all'interno delle alleanze. Ecco, sulla base di questo fa i numeri e su questo si fa un libro bianco, non si decide guardandoci negli occhi e pensando, diciamo, fra noi. Ma come quanti si può ne fare. Servono? Ma ne servono, questo dipende da in quanti teatri l'Italia vuole essere responsabilizzata. Con i droni, si decide anche con gli alleati. Ormai con i droni non sono, beh, sono due cose, sono due cose però diverse, perché da questo punto di vista gli F-35 in realtà sono gli aerei del futuro, questo dicono gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea. Però io penso che sia sbagliato farne noi una discussione tecnica, sono i tecnici che devono dire fare, che cosa serve. Noi dobbiamo dire che cosa ci serve per difenderci o per intervenire nei teatri dove ci possono essere rischi. Senti, molti hanno pensato che la trattativa è stata incerta con l'India per non compromettere le commesse di Finmeccanica, è vero? Io non ci voglio credere. Ma lei li avrebbe rimandati indietro dopo che erano venuti in Italia? Guardi, io su questo non rispondo perché sono responsabilità di un governo precedente, quindi credo che sia scorretto per il ministro successivo rispondere. Quindi non mi vuol dire se Monti li ha traditi? No, non glielo voglio dire. Senta, ma a che titolo i Marò erano imbarcati su una nave non militare? Erano imbarcati su una nave non militare perché si è deciso, e su questo c'era una decisione di tutto il Parlamento, che dato che i nostri mercantili stavano subendo attacchi di pirati con un problema pirati, per la nostra economia notevole, c'era una richiesta di poter intervenire. Peraltro lo fanno la Francia, la Spagna, con modalità diverse. Per esempio la Francia imbarca militari, la Spagna invece team di civili, diciamo, di contractor. Da questo punto di vista quindi erano compresi in un accordo. È stata decisa questa cosa all'interno del decreto. Senta, missione. Lei me l'ha detto prima, se non chiudiamo con il governo indiano andremo all'arbitrato, ma mi dice in due parole cosa vuol dire? Vuol dire che il problema dell'immunità funzionale, cioè il fatto che noi non accettiamo che ci possa essere la giurisdizione indiana, lo portiamo a livello internazionale. Ma chi fa questo arbitrato? Questo arbitrato, qual è il luogo dell'arbitrato? Il luogo fisico dell'arbitrato, diciamo, è il tribunale internazionale, ma da questo punto di vista Io spero ancora, ed è il punto su cui stiamo lavorando molto, essendoci un nuovo governo indiano, certo, c'è un nuovo governo italiano. Poi non c'è più l'italiana. Dato che l'arbitrato è lungo, è lungo, noi speriamo di poter trovare ancora un'intesa, perché crediamo che anche i ministri indiani possano riconoscere che i loro militari in missione debbano godere dell'immunità funzionale. Su questo punto speriamo di trovare un accordo. Ecco, ma lei è la prima donna italiana, la prima donna a fare il ministro della difesa. C'è un problema numero uno in quanto donna, no? Anche se c'aveva già un po' di curriculum in quel senso. No, non l'ho sentito questo. Guardi, un po' straordinariamente ho percepito il mondo militare, che è un mondo ancora, soprattutto agli arti vertici, completamente maschile. Poi sono entrate le donne, ma non sono ancora per una questione di anni necessari prima di arrivare ai vertici. Meno perplessità sui ruoli delle donne di quanto non ho trovato a volte nella politica stessa. È un vantaggio invece che in quel mondo fatto tutto di uomini le deriva dall'essere donna, la tra militare l'ha trovato? No, io penso ho trovato un'attenzione alla competenza e alla professionalità. Senta, lei come vicepresidente della Commissione Difesa ha promosso la riforma del codice militare. Con quale obiettivo principale? Noi abbiamo ancora due codici, uno di pace e uno di guerra, che risalgono al 41. Per allora fatti molto bene, per oggi assolutamente abbastanza anacronistici, perché per esempio tutto il tema delle missioni militari all'estero non c'è. Quindi anche ad esempio la questione dell'immunità funzionale e del ruolo dei nostri militari all'estero può trovare una completezza migliore in un nuovo codice. Ecco, ma qual è stato l'ostacolo più forte da superare per cambiare il codice? È un lavoro molto lungo e allora diciamo iniziato nel Parlamento non si è mai concluso perché non c'erano accordi fra maggioranza e opposizione rispetto a come arrivare a rivedere il codice. Senta, Ministro Pinotti, ho letto che lei a San Pier d'Arena, al quartiere operaio di Genova dove vive, discute spesso con i cittadini per spiegare che la difesa è importante come la scuola e come la sanità. Ci riesce a farlo? Beh, ci provo, nel senso che io ricordo un episodio molto importante per me, quando ero in Commissione Difesa la prima legislatura e avevo un po' di problemi, tutte le volte si doveva votare sui sistemi d'arma, perché appunto venendo anche da una storia cattolica diversa, eccetera. Io ho incontrato Michelle Bachelet, l'attuale presidente del Cile, che era stata ministro della difesa, oltre che già presidente. E quando è venuto in commissione, dato che io avevo un po' di problemi a ragionare in me stessa, gli ho chiesto, ma lei che è una donna e di sinistra, quando è come ministro della difesa, ce la fa a chiedere i soldi per queste cose? Lei mi ha detto, guardi, la difesa è ancora più importante della salute, mi dice, perché di fatto è uno degli elementi primari dello Stato. Io su quel concetto ho lavorato. Non sono arrivata a dire che è più importante della salute, ma che comunque è un punto fondamentale dello Stato. Insomma, l'ha giustificata, si sente giustificata. Con la spending review lei ha detto taglieremo molto anche personale militare, civile, eccetera, quanto? Beh, noi adesso abbiamo ancora un modello a 190.000 soldati e 30.000 civili, noi passeremo a 150.000 personale militare e 20.000 civili. Entro? Quindi un taglio molto grande entro il 2024, ma io spero di poter fare anche prima, perché alcune delle decisioni prese nella riforma della pubblica amministrazione possono agevolare un cambiamento più rapido. Senta, lei dice sono il ministro della difesa e non della guerra, sempre per risolvere quel problema di prima. È un espediente linguistico per difendere il suo passato pacifista oppure cosa? No, guardi, basta avere frequentato un po' i nostri militari nelle missioni internazionali per capire che non è un espediente linguistico, è la realtà. Cioè, i nostri militari vivono l'articolo 11 della Costituzione, che quella dice noi non usiamo non ci servono le forze armate per aggredire, ci servono per difendere. Quindi nessuna contraddizione tra l'essere stata pacifista e essere oggi ministro della difesa. Se ce l'avessi non avrei accettato questo incarico. Lei ha due figlie femmine, che cosa vorrebbe essere sicura di riuscire a insegnarle? Soprattutto il fatto che se ci si impegna si riesce ad arrivare dove si vuole arrivare e che non è importante, cioè, ognuno ha la sua strada e il suo percorso, cioè nessuno deve pensare di seguire quello che hanno fatto i genitori. Ciascuno dentro di sé può diventare la miglior persona del mondo se segue le proprie inclinazioni. Si considera una buona madre, Mi considero una mamma attenta nonostante la difficoltà di fare un lavoro difficile spesso lontano da casa, cioè ci penso alle mie figlie, le guardo, le sento per telefono se hanno difficoltà e sanno che se dovesse essere necessario io lascio tutto e torno da loro. Qual è il suo difetto peggiore? Sono impaziente, molto impaziente. E la qualità che si riconosce e a cui non vuole rinunciare? Beh, sono coraggiosa. Ministro Pinotti, una volta il suo partito, il PC, quando doveva fare proposte alla finanziaria su come trovare delle coperture per le scelte che si facevano, sceglieva sempre i tagli e la difesa. Si sbagliavano? Poi nella trasformazione del PC, la prima volta che si è governato col presidente del Consiglio D'Alema, si è trovata a gestire una situazione complicata come l'intervento sui Balcani. Allora, in realtà, diventando partito di governo e non solo di opposizione, si tratta di capire che alcuni pezzi dello Stato ci sono e vanno anche finanziati. L'ottica cambia molto, per questo l'alternanza fa bene a tutti. Lei dice che durante il semestre europeo proporrete a Francia e Germania di formare assetti operativi comuni. Vuol dire che si va verso un nucleo di esercito comune europeo. Vuol dire che stiamo lavorando con lo strumento che oggi ci consentono i trattati, perché di fatto l'immaginare di pensare oggi che 28 stati dell'Unione Europea tutti marcino compatti verso la difesa è una cosa irrealistica. Ma sullo sfondo ma assolutamente è questo l'obiettivo, ma realisticamente oggi, per esempio, coinvolgendo Francia e Germania, ma anche altre, sono partita dalle nazioni più significative, dicendo mettiamo insieme degli assetti comuni, facciamo un passo avanti. Io ieri ero in Francia, a Parigi, ho incontrato il mio collega Le Drian, è già la seconda volta che ci incontriamo da quando sono ministro, quindi in pochi mesi, e abbiamo deciso, stiamo lavorando perché ci sarà nel 2015 una brigata franco-italiana che interverrà in Libano. Faccio questo esempio per dire sempre più che poi è la operazioni più concrete di questo tipo ci possono portare a costruire una difesa europea. Che era la vecchia idea di De Gaulle della comunità europea di difesa. Ma è sempre un'idea valida. Un po' in funzione anti-americana, ma insomma... Non credo che oggi debba essere in funzione anti-americana, ma credo che debba esserci un'Europa della difesa che diventa un assetto fondamentale della NATO. Un assetto della NATO? Cambierebbe molto. Non un assetto. Io dico, invece che ragionare sul fatto che NATO e Europa siano o contrapposti o complementari, noi dobbiamo immaginare che se l'Europa costruisce una propria difesa, la NATO diminuisce. La NATO è un'alleanza ed è un'alleanza militare. L'Europa vuole essere qualcosa di più. Ma dentro a questa alleanza militare, il fatto che paesi europei abbiano assetti comuni lavoreranno all'interno della NATO. Quindi sulla automaticamente quindi si scioglierà quel ruolo. Dico che in questo modo non parliamo più di contrapposizione con parlamentarietà, ma parliamo di un coordinamento di quelle che sono le disponibilità. Senta, Ministro Pinotti, si parla molto di una tendenza... Quindi in quando parlo di assetto non imparo in modo subordinato. No, dico che la NATO debba in qualche modo accogliere le nuove decisioni europee. Devono accettare che l'Europa cambia anche sul piano militare, detto in tre parole. Ecco, si parla molto di una tendenza neo-isolazionista degli Stati Uniti. Per molti ci sono segnali. Lei li vede? Ma io ho sentito una richiesta, che è quella di dire noi non ce la facciamo più a tenere tutti i teatri e anche gli altri stati, anche l'Europa, deve fare la sua parte. Insomma, pagatevi, siete più liberi. Io penso che da questo punto di vista il fatto che noi dobbiamo fare la nostra parte, pensiamo ad esempio allo scenario del Mediterraneo, sia una richiesta corretta. In questo senso credo che possiamo anche meno sentirci, io penso che l'alleanza debba essere intesa per quello che significa, cioè alleanza, non subordinazione. Ovviamente agendo un ruolo si è più significativi anche in un rapporto. Se uno è libero, paga. E può dire più chiaramente anche il proprio punto di vista, che penso che sia fondamentale per avere una visione di politica estera più completa di quelle che possono avere gli Stati Uniti. E quindi diciamo che sta cambiando anche negli Stati Uniti il loro ruolo. Si accorgono che la cultura per gestire tutto non ce l'hanno. Esatto. Infatti, dopo il fallimento, delle primavere arabe, anche il ruolo più incerto degli Stati Uniti nel Medio Oriente si sente sempre di più. Sembra quasi che ci sia come un deficit culturale geopolitico degli Stati Uniti. Ma io penso che proprio ad esempio perché per la vicinanza geografica e per legami storici noi abbiamo più collegamenti, non vedo perché dobbiamo farci dire da altri quella che è. Io penso che su alcune situazioni, pensiamo alla Libia, l'Italia possa avere storia, legami, cultura e interessi per essere protagonista nel dire che cosa serve fare. Ecco, ma per esempio forse è stato un errore abbandonare Gheddafi. Ma guardi, io penso che lei si occupa molto di storia, penso che la storia non si possa fare guardando indietro, la politica si fa guardando avanti. Senta, beh, molto diplomatica. Senta, il ruolo strategico di Putin sta crescendo nei confronti dell'Unione Europea? Beh, in questo momento viviamo un momento di difficoltà, non c'è dubbio, perché con la situazione ucraina un percorso che era andato avanti negli anni, anche per esempio con il forum NATO-Russia, che era importante, che oggi su alcuni scenari, pensiamo alla Siria, potrebbe essere fondamentale, ha indubbiamente avuto una battuta d'arresto. Ed è forte questa battuta d'arresto. Io però mi auguro, l'Italia lavora su questo, perché non sia una battuta che diventa un tornare indietro. Ecco, però in realtà la politica delle sanzioni verso la Russia, si è visto in Ucraina, sembra quasi più dannosa per noi che per la Russia. Ma per ora sono sanzioni che riguardano, diciamo, singoli individui, non sono sanzioni parole. Che riguardano... No, sono sanzioni, non sono solo parole, sono stati fatti alcuni atti, perché però non c'è dubbio che c'è stato un intervento in un'integrità territoriale, quindi bisognava far sentire la propria voce. Da lì a immaginare che siano sanzioni da cui non si torna indietro, chiudere il dialogo, credo che... Non convenga a nessuno. No, ma non soltanto per una questione di interessi che non facciamo finta. Ma proprio anche per una questione di come pensiamo al mondo del domani. Cioè, noi possiamo pensare che alcune situazioni, dall'Iran alla Siria, possiamo gestirle senza parlare con la Russia? No. E allora noi dobbiamo ricominciare a parlare con la Russia. E quindi con la Russia bisogna parlare in un modo diverso. Intanto il Libro Bianco sulla difesa sarà il suo documento programmatico per ridisegnare le forze armate dei prossimi anni. Quando sarà pronto? Noi abbiamo le linee guida pronte, quindi domani sono presentate al Consiglio Supremo di Difesa e poi verranno rese pubbliche, mandate al Parlamento e si comincerà un periodo di discussione, perché la novità di questo libro bianco rispetto a alcuni libri bianchi chiamati così in passato è che non lo stiamo costruendo tutto all'interno degli stati maggiori, anzi l'abbiamo costruito con un gruppo di esperti, abbiamo cercato di aprire al mondo accademico, a tutti i think tank su questo studio, e l'idea è anche da qui a dicembre di aprire ad esempio un sito dove si possono raccogliere quelle che sono considerazioni, perché la difesa non deve essere solo degli addetti ai lavori, se no non si riesce a spiegare come la difesa. Niente deve essere solo degli addetti ai lavori. No, esatto. E quindi noi abbiamo le linee guida pronte e da qui a dicembre elaboreremo il libro bianco. E quindi adesso ci sono, c'è la filosofia di fondo e poi si lavorerà invece sullo specifico. Se ci servono più navi, più aerei, meno alpini, più paracadutisti. Anche perché a seconda di dove tu ritieni che sia, diciamo, lo scenario dove tu ti vuoi concentrare, deciderai se ti serve più marina o più alpini. Senta, intanto c'è una guerra che combattiamo da soli, senza l'Europa. È quella degli sbarchi, 60.000 finora dall'inizio dell'anno, l'operazione Mare Nostrum che dissangua la difesa, ho letto, e non risolve nulla, è un fallimento sostanzialmente. Guardi, d'accordo? No. Perché non è un fallimento. Non è un fallimento, perché nel momento in cui tu o accetti che possono morire migliaia di persone davanti alle tue coste, e io non lo accetto, e il governo italiano ha deciso di non accettarlo, oppure in quella situazione dove noi non abbiamo spinto i migranti a venire, ricordo che sono morte 300 persone da fronte alle nostre coste e da lì nasce questa operazione, tu devi decidere, secondo me, che le persone non le fai morire, i bambini non li fai morire, le mamme non le fai morire. Questo è bellissimo da pensare, da dire, ma... Detto questo, questa è una soluzione emergenziale. Sì, ma non è emergenziale. E non è giusto che l'Italia la possa tenere sulle proprie spalle. Allora, il 25-26 giugno allora c'è... Allora è un fallimento, perché di fatto è da soli. Noi la facciamo da soli, l'Europa non si è impegnata con noi. Diciamo che sarà un fallimento se dopo il Consiglio sull'immigrazione, che ci sarà il 25-26 giugno, quindi non stiamo parlando fra un anno, stiamo parlando fra qualche giorno. Renzi, il presidente, si presenterà con un piano in cui noi proporremo di trasformare Frontex, che adesso ha a Varsavia, ai confini orientali, trasformarla perché diventi un'operazione del Mediterraneo, finanziarla e di fatti debba assorbire i compiti che oggi ha Mare Nostrum. Ecco, perché intanto molti dicono che Mare Nostrum, così com'è in questo momento, funziona anche da taxi nell'interesse dei mercanti di uomini, alla fine, perché bisogna anche... Se funziona, dirci la verità. C'è stato anche purtroppo recentemente uno sbarco, cioè un gommone che si è ribaltato e ci sono stati dei morti in mare. Adesso, francamente, quando ci sono situazioni di questo tipo, a parlare di taxi, diciamo che l'Italia non può essere lasciata da sola e che l'Europa deve assorbire questa missione. Il resto, andare a lucrare laddove c'è il rischio che muoiano esseri umani, non mi pare. Ma è l'interesse dei trafficanti utilizzare Mare Nostrum. Perché, secondo lei, di fronte alle situazioni da cui partono, Eritrea, Siria, Siria, Mali, queste persone non partirebbero comunque perché scappano dalla guerra e dalla morte. Dopodiché noi dobbiamo trovare modo di non farli imbarcare. Ma per questo serve avere una Libia con cui parlare. Perfetto. Allora, non sarebbe più efficace che l'Europa risolvesse il problema stabilizzando i paesi sulla sponda non sud del Mediterraneo? Quella è la strada. Non c'è dubbio, quella è la strada. Perché ma lei... l'altra strada è sempre emergenziale. Diciamo che la fine di giugno sta diventando abbastanza cruciale. Il 25 giugno sono previste le elezioni in Libia. Noi speriamo che si tengano, speriamo che diano un quadro, ma è essenziale perché senza un'interlocuzione statuale con cui parlare, tu non puoi dire alla Libia: intanto devi firmare con l'ONU un accordo perché l'UNHCR possa mettere lì dei propri presidi per individuare chi può partire e chi no. E quindi fondamentale è il fatto che oggi la Libia superi questa fase. Vabbè, speriamo che la Libia lo superi. Non ci sono delle premesse ideali in questo momento, francamente. No. Se dobbiamo dire la verità. Ecco, purtroppo no. Molto di tutto quello che diciamo in questo settore, in tanti settori, è, come dire... rimandato o comunque messo sulle spalle del semestre europeo. Allora, questo semestre europeo esattamente come funzionerà? Funziona, ogni ministro di fatto ha preparato un'agenda di quelli che sono i temi principali. Parlo per me, che è quella che conosco meglio. Per esempio, ne abbiamo messe a punto sugli assetti operativi comuni, sulla sicurezza marittima, eccetera, una serie di appuntamenti dove speriamo di poter sottoscrivere accordi, non soltanto parlare di temi. Ecco, non c'è il pericolo di appunto caricarlo di aspettative messianiche questo semestre europeo? Sì, mai caricare nulla di aspettativa messianica. Il problema è se rimaniamo al punto di partenza o se facciamo dei passi avanti. Ecco, per fare il passo avanti, Renzi una carta in mano ce l'ha, il 40% dei voti che ha preso le europee. Pensa che riuscirà a farlo valere Io sul penso tavolo che lui abbia l'idea chiave per l'Europa, cioè se noi rimaniamo dentro un'Europa di regole burocratiche che non capisce i problemi delle persone, i cittadini voteranno i partiti euroscettici e non costruiamo l'Europa, anzi torniamo indietro. Se invece l'Europa capisce che si deve sintonizzare e quindi essere più politica e quindi meno burocratica, bisogna tornare al vero spirito di Maastricht, io penso che Renzi su questo abbia le idee molto chiare. Senta, cosa le piace di più di Renzi? È molto deciso e determinato e ha davvero voglia di cambiare l'Italia, cioè non fa politica perché, come dire, gli piace stare in quel posto. Politique d'abord, veramente. Davvero, ha davvero voglia di cambiare questo paese. E di meno cosa le piace? Cioè, anzi, cosa... Devo dire, non le piace, sì. No, a me piace molto. A lei piace tutto, un po' innamorata. No, innamorata no, perché scherzo, è un ragazzo rispetto scherzo. A me, però mi piace. Senta, Expo... Mi piace perché ha dato alla politica il coraggio di dire... Soprattutto il primato, ma gli ha ridato esatto, il primato. Esatto, finalmente non ci vergogniamo di dire siamo dei politici. Expo, Mose e tutto il resto. Intanto però c'è una questione morale trascurata dentro il PD? Guardi, c'è una questione di... non credo che si possa dire che sia una questione morale trascurata dentro il PD. Credo che ci siano situazioni in cui, come vengono fuori, ci sono degli errori e chi sbaglia deve uscire fuori. Però non ne farei una questione generale. Non c'è dubbio che ci sono dei casi particolari e che questi ci pongono degli interrogativi. Senta, sul piano politico Renzi dice che non ha preso il 40% dei voti per farsi bloccare sulle riforme da Corradino Mideo. Ha ragione, eh? Sì. Perché? Ha ragione perché il Paese ci sta chiedendo dei cambiamenti e non si può pensare che un singolo parlamentare che ha diritto ad avere le proprie opinioni quando in vota camera. Possa bloccare quello che è il processo delle riforme. Senta, i giornali e la televisione parlano sempre di più, l'ho detto in presentazione più di lei, come possibile futuro Presidente della Repubblica, la lusinga? No, mi spaventa. Però se glielo chiedesse al momento giusto accetterebbe. Ma guardi, io veramente è una cosa, l'ho letta perché si figuri e poi mi dicono, però è una cosa a cui a me viene da sorridere, non perché non senta l'importanza della cosa, ma perché per me è così straordinario poter fare ministro della difesa, già non me lo sarei mai immaginato nella ma vita. I miracoli si ripetono e nella vita. E sono così impegnata a fare quello che sto facendo che non ho il tempo per pensare ad altre chi cose. Chi fa bene quello che fa, magari può fare bene tutto. Ecco, più in generale, pensa che sia arrivato il momento di avere comunque una donna capo dello Stato a prescindere questo da lei? Questo sì. Ne vede in giro, a parte lei? Sì, ne vedo. Guardi, chi si sarebbe immaginato prima del governo Renzi che tutto sommato tutte queste donne, anche giovani, stanno dimostrando di essere molto capaci. Quindi donne capaci ce ne sono tante. Bene, allora qualche nome ce l'ha? Beh, faccia un nome. Guardi, dato che fare i nomi prima non porta bene, vabbè. E questo riguarda anche quello che diceva lei su di me, credo sia meglio non farne. Senta, lei è una maratoneta, questo l'abbiamo detto, questa è anche una maratona, ma intanto c'è quella di New York. In quanto tempo la fa? 4 ore e 49, l'ho fatta una volta, diciamo, è stata... E la vuole rifare? Mi piacerebbe rifarla, non so se a New York, però rifare una... Insomma, sto pensando ad un'altra maratona in Italia questa volta. Vale. Stavo pensando a Venezia. Ah, Venezia, bellissima. Ma riesce ad allenarsi? Beh, io lo faccio la mattina presto, lo faccio sentendo la rassegna stampa, perché così recupero, diciamo, rispetto alla lettura dei giornali. E poi una cosa mi serve molto per scaricare, perché il lavoro è un lavoro di tensione, certo. E poi mi serve molto a pensare. Mi vengono ma quanto? Più... Si allena per quanto? Ma faccio almeno 3 volte alla settimana, un'oretta durante la settimana, e se mi alleno di domenica un po' di più. Senta... Le faccio un'ultima domanda, ma che cosa le insegna la maratona che le serve nella vita? Insegna a gestire la fatica, insegna ad andare oltre il limite, insegna ad avere sempre una sfida con se stessi. Grazie. Mix 24. Allora Mario, che titolo faresti d'intervista alla Pinotti? Blitzkrieg Pinotti in giapponese. Bravissimo. E tu Pietrangelo? Il vero ministro degli esteri è alla difesa. Un bel titolo, 9 colonne, canzone. In metropolitana si andava stamattina, eh? No, guarda, in metropolitana niente. L'immagine vera è stata quella di un ragazzo che correva via, però per conquistare, per guadagnare qualcosa. Aveva un'allegria, aveva un sorriso, aveva proprio un'esplosione dentro. Aveva visto Marino. Sì. No. Buon per lui, no, quello è impegnato altrove. È sotto Marino. È un disastro. Ieri un nostro ascoltatore ci ha consegnato un Twitter che era perfetto per descrivere la giornata. Le giornate romane sotto il temporale, no? Perché sappiamo che certo. Roma ne approfitta di piangere quando piove per non farsi vedere. E un nostro ascoltatore ci ha detto: l'unica soluzione per Roma a questo punto è il Mose. Bolle! Allora, oggi andiamo in un posto un po' lontano ma interessante. Prego. Che cos'è questo, Pietrangelo? È roba sua. Questa è roba sua. Mi riservo per dopo la Eurasia. Vabbè, insomma, è l'ino iraniano. Allora, dopo la Russia è tornata, cari amici, la Persia. E qual è lo stato più stabile del Medio Oriente? È lui. L'Iran, esatto. Cari signori. Questa è una verità difficile da ammettere per gli Stati Uniti. Posso capirlo. C'è tutta una tradizione, si sono scontrati per decenni. E vabbè, però ora sono in corso i colloqui per collaborare a cercare di fermare le milizie sunnite dell'ISIS in Iraq. Il primo incontro si è tenuto lunedì a Vienna. Segno dei tempi. Segnalo un altro segno dei tempi, che è, insomma, il semaforo verde sul dossier iracheno e la collaborazione tra Washington e Teheran è arrivato con un'intervista del segretario di Stato John Kerry. Secondo voi a chi l'ha data l'intervista? Al venerato New York Times? No. Al mitico Washington Post? No. No? John Kerry ha parlato con Yahoo News. È un segno dei tempi, è la stampa bellezza, beh, e non mia. Possono farci niente. E quindi hanno bisogno di noi cattivi. Sì, va bene, ecco Iran. Sì, ma certo. Abbiamo ancora il ministro, approfittiamone questo rapporto Iran-Stati Uniti avanzerà. Ministro Pinotti. Io spero di sì. Io spero che ci sia, diciamo, un passo avanti anche su questo. Non c'è dubbio che alcune situazioni sono cambiate se noi guardiamo. Certamente, rispetto a sì. 2 anni fa. Ovviamente c'è ancora un po', insomma, è ancora lavorare, lungo il percorso, però insomma segni. Segni. Bolle! Allora, secondo te qual è l'azienda preferita da quella volpe degli investimenti che si chiama Warren Buffett, Giovanni? Beh, non lo sai, senti. Via, via! Andare a più non posso! Rinco sta pronto! Queste ombre rosse, l'assalto alla diligenza della Wells Fargo, che cominciò come portavalori e poi divenne che cosa? Una grande istituzione finanziaria. Pensa, è l'istituzione finanziaria più valutata della storia americana. 280 miliardi di dollari di capitalizzazione alla borsa di New York. E vai, noi andiamo con la nostra quota rosa, vai Sara. Eccomi, siccome si dice sempre che i trentenni di oggi sono senza lavoro, o NEET, o addirittura un po' ignoranti, io ne ho trovato uno giovane, forte e lavora. È Paolo Di Paolo, scrittore. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Sei al terzo libro su Indro Montanelli, Tutte le speranze, Montanelli raccontato da chi non c'era. Ma come mai un ragazzo dell'83 scrive un libro su un uomo del 1909? Ma perché vuole affacciarsi sull'altro secolo, quello in cui ha messo solo un piede, e affacciarsi guardandolo senza i pregiudizi ideologici invece che ha la generazione dei padri, quella dei miei padri, quindi 50-60 anni, che trovo così blindati nel loro passato. Bisogna un po', post-ideologico, guardare con un'altra ottica. Post-ideologico come Renzi. Senti, quando sì. Sei inciampato in Montanelli? Io sono incappato in Montanelli guardandolo in una apparizione televisiva nel 94, credo, nel periodo in cui appunto era sulle cronache per il divorzio da Berlusconi. Mi aveva colpito, era un ragazzino, questi occhi azzurri, queste mani lunghe, questo essere così poco italiano anche nei tratti fisionomici, diciamo così, e quindi questo mi aveva un po' conquistato. Poi ho cominciato a scrivergli lettere e da lì. Esatto, a 15 anni gli scrivevi lettere che mandavi al Corriere. Lui poi ti ha chiamato, ma cosa vi siete detti? Mi ha detto, io ho cercato di incontrarlo, di chiedergli un incontro come si fa con le rockstar. E lui mi ha risposto invece che i miti è meglio guardarli da lontano, perché più ci si avvicina più se ne scoprono le rughe. Grazie mille. Grazie Salamino. Salamini di riforme, ben due ce ne sono. Allora, siccome tutta l'acqua va per l'orto di Matteo Renzi, tutti sono favorevoli. Lui stesso cosa ha detto? Che un mese fa sembrava avessi la peste, adesso invece è tutto un correre proprio al traguardo del cuore di Renzi. E i giornali, che sono forti di spirito critico, hanno anche raccontato di un fatto incontrovertibile, perché tra il Mose di Venezia e l'acqua di Roma assicurano che comunque Matteo Renzi riesce a camminare sull'acqua e poi ha anche attivato la moltiplicazione dei pesci a 80 euro cada uno, altro che i fagiolini di Berlusconi. E quindi i progetti di riforme sono ben due: l'Italicum e il Democratellum proposto dai 5 Stelle. E siccome c'è sempre bisogno di una sintesi perfetta, non possiamo che affidarci alla bellissima vignetta di Giannelli, dove, prendendo a braccetto Napolitano, Renzi dice: su via sarebbe come dover scegliere tra Casaleggio e Maria Elena Boschi. Mix 24. Canzoniere! Egli parlava con abbandono, quasi che vedesse lo spirito della donna attenta a farsi concavo come un calice per ricevere quell'onda e volesse riempirlo fino all'orlo. 800 24 0024, numero verde, 349 238 6666, SMS, bolla. Allora, in der Furgen und ach du, dentro in der Kacke marciamo po. Voi ve le ricordate le Sturmtruppe? Sì. Certo. Non era male, senti. Allora, è sempre una questione tedesca, però Giovanni, segnalo che la situazione è divertente a questo punto, perché Angela Merkel pare abbia deciso di non darla vinta a David Cameron. Lui aveva messo il veto al candidato alla Commissione europea, Jean-Claude Juncker, per la presidenza. No, insomma, gli inglesi volevano fare muro. E invece la Merkel dice no, bisogna votare, e a questo punto, secondo me, deve presiederla lui. Insomma, c'è uno schieramento di forze molto molto molto interessante, perché Cameron dice beh, però io la battaglia la faccio fino in fondo, e cerca di attrarre sostanzialmente l'appoggio di Matteo Renzi, Viktor Orban, che è il premier ungherese, e Mark Rutte, il primo ministro olandese. Ce la farà a tenere fuori l'uomo gradito a Berlino? Vedremo. Faccio notare che si è votato da un mese, il nuovo governo europeo non c'è più, quindi vediamo cosa succede. E intanto l'anteprima di quello che verrà dopo il giornale radio, racconteremo a cura di Marina Milone la storia di un uomo contestato e amato, la storia di Padre Pio, il frate con le stimmate che Giovanni Paolo II proclamò santo nel giugno del 2002. Ci accompagnano in questo racconto due personaggi agli antipodi: Andrea Tornielli, Pier Giorgio Odifreddi, giornalista, logico matematico, cattolico per grazia, bisognoso della misericordia di Dio e credente, ateo. Le stimmate non c'erano quando Padre Pio è morto, e questa mi sembra la prova che non c'erano nemmeno prima. Padre Pio ha avuto le stimmate praticamente per tutta la vita, e le ha avute anche nei giorni precedenti alla morte. Padre Pio è uno dei simboli della credulità o della creduloneria, in realtà religiosa. Io credo che Padre Pio sia stato un grande santo, ma il titolo sarebbe che è stato un mistero prima di tutto per se stesso. Una grande storia dopo il giornale radio. Salamino. Bella, eh? Salamini eurasiatici. Allora, c'è Piripicchio che dice: sono Piripicchio e sono liberale. Poi arriva Piripacchio: sono Piripacchio e sono liberale. Si presenta quindi Picchio Pacchio: sono Picchio Pacchio e sono liberale. Non può mancare Pacchio Picchio: sono Pacchio Picchio e sono liberale. Capita per caso Ivan e viene interpellato: chi sei? Sono Ivan e sono stalinista. Oh. Attoniti, tutti i picchi e i pacchi si meravigliano: come stalinista? E certo, dice Ivan, mio padre è stalinista, mia madre è stalinista, io sono stalinista. Tutti i picchi e i pacchi si meravigliano e dicono: ma come stalinista, ma come? E se i tuoi genitori fossero stati dei depravati, dei tossicodipendenti, degli alcolizzati, dei ladri, tu cosa saresti? Risposta di Ivan: sarei liberale. Allora, professor Doglio, buongiorno. Buongiorno, vedo che vi divertite. Ci divertiamo molto. Speriamo di continuare a farlo, professore. La BBC continua nel frattempo la sua cura dimagrante per il rinnovo della charter del 2016, è così? Eh sì, dovendo ridurre i costi del 16% all'anno, questa settimana la scure è caduta sul settore delle news. È un complesso di redazioni giornalistiche, come ben sa, molto affollato. Certo, eppure ci sono... Dica. No, dico, ci sembrava che l'Inghilterra non fosse messa così male. La pubblicità è tornata a crescere, no? Lo so, però diciamo che il contesto è in effetti molto propulsivo. Però, nonostante questo, hanno dovuto decidere di mandar via 500 persone sulle 8.000 che costituiscono il settore news, che è molto ampio e articolato. In effetti è vero che le cose non vanno male per niente, l'economia sta tornando a crescere, anche se lentamente, certo. E si vede proprio dalla ripresa della pubblicità su tutti i media. C'è un ultimo rapporto dell'Associazione dei Pubblicitari, che è un organo di ricerca anche di riferimento molto importante, secondo cui gli investimenti pubblicitari nei prossimi 2 anni cresceranno fino a superare i 20 miliardi di sterline, che sono 24 miliardi di euro. Quindi con che percentuale cresce? Cresce a tassi medi del 5-6% all'anno, trainati dalla spesa, diciamo complessivamente il settore cresce del 5-6%, quest'anno loro prevedono di tornare per la pubblicità televisiva sopra i 4,3 miliardi di sterline, cioè sopra i 5 miliardi, recuperando sullo sboom del quinquennio 2007-2011 in cui avevano perso fino al 40%. Ecco, ricordo il nostro numero 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666, per chi volesse rispondere al canzoniere. Ma intanto, professor Doglio, è finito il mandato di Lord Patton, il presidente della BBC. Ci sono già dei nomi che circolano? Beh, si è parlato di Sebastian Coe, Lord Coe, che è stato deputato conservatore, capo del comitato organizzatore delle Olimpiadi, ma soprattutto campione olimpico a Mosca, detentore dei record mondiali degli 800 e dei 1500. ma siccome pare che abbia già una ventina di incarichi che gli rendono circa 1,5 milioni di sterline l'anno, dovrebbe rinunciare a qualcosa. Perché quant'è lo stipendio del Chairman? Lo stipendio del Chairman è circa 110.000 sterline all'anno, significa? Per 3 giorni di lavoro alla settimana, 140.000 euro. Ah, beh, mica tanto. All'anno. Per i prezzi italiani, diciamo. Cioè, però interessante è la modalità con cui il ministro della cultura, che è un ex islamico, un ex banchiere nonché islamico, Sajid Javid, ha dato il via alla ricerca del possibile candidato, pubblicando sui giornali online, sui giornali e online, un annuncio per ingaggiare il professionista adatto. Gli aspiranti hanno tempo fino al 20 giugno per presentare la propria candidatura e i curriculum. Dal 28 luglio sosterranno un colloquio con i membri del BBC Trust, a cui spetta la decisione finale e la relativa assunzione, che naturalmente poi dovranno essere ratificate dal primo ministro e dalla regina. Insomma, è una modalità molto trasparente, certo, chiaro, in cui la politica esiste, ma non è assolutamente dominante. Ma è diciamo la figura equivalente in Rai di Lord Patton, quale non c'è, perché quello è un amministratore unico in qualche modo. No, perché è diverso tutto il sistema tutto di governance. Sistema, certo. No, diciamo che potrebbe essere un presidente del consiglio d'amministrazione, la signora Tarantola di oggi, con più potere esecutivo e di controllo. Però bisogna tener conto che il Trust non è un organo di nomina politica, rappresenta i cittadini che pagano il canone ed esercita il suo potere di controllo nel loro interesse. Dopodiché l'autonomia centrale esecutiva rimane nelle mani del direttore generale. Grazie professore, pubblicità.